Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Bentrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, buon weekend da parte di Giampaolo Musumeci e della squadra di Nessun Luogo Lontano. Questo è il meglio di Nessun Luogo. Iniziamo subito andando in Corea del Nord parlando di Kim Jong-un, della sua strategia militare e delle conseguenti relazioni internazionali. E mentre le Moranbong, questa pop band tutta al femminile, celebra le bellezze, il paradiso nordcoreano, una delle tante armi che ha a disposizione il regime di Pyongyang, un'altra arma, quel missile che è stato lanciato, Hokkaido, l'isola di Hokkaido giapponese, beh, quella desta molta più preoccupazione di questo pop in salsa nordcoreana. E adesso l'ospite che vi introduco certamente riuscirà a darmi una mano a rispondere alle tante sollecitazioni. Marco Milani, ricercatore alla University of Southern California. Milani, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio a tutti. Marco Milani, ricercatore alla University of Southern California. Che cosa vuole Kim Jong-un con quest'ultimo lancio? Qual è il suo obiettivo? Sostanzialmente la strategia della Corea del Nord è rimasta coerente negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi, dall'anno scorso, quando con il doppio test nucleare di gennaio e di settembre appunto la comunità internazionale si è di nuovo accorta dell'esistenza di questo paese. E l'obiettivo finale è duplice: da un lato c'è un obiettivo più strettamente militare, che è quello di dotarsi di un deterrente nucleare che sia credibile, e dall'altro invece c'è un obiettivo che è più strettamente politico, e cioè essere riconosciuti in primo luogo dagli Stati Uniti come una potenza nucleare. Però credo che tratteggiare il regime nordcoreano come un regime irrazionale sia un grosso errore, non solo per l'opinione pubblica, ma anche per molti analisti che continuano a sostenere appunto una visione di questo genere, dell'irrazionalità di Kim Jong-un, che alla prova dei fatti si dimostra totalmente essere falso. Insomma, assolutamente lucido nel perseguire questo obiettivo, sì. Diventare un attore internazionale a tutti gli effetti, evidentemente la leva nucleare, quindi un armamento potente, chiaramente lo farebbe assurgere a partner di calibro, è il caso di dirlo. Purtroppo spesso questo sensazionalismo che viene ricercato soprattutto dai media occidentali, e che porta anche a proporre notizie che non sono confermate e che risultano essere puntualmente false in diverse situazioni successe negli ultimi anni, crea appunto delle visioni distorte, sì, basate sul sensazionalismo e non su quella che è la realtà dei fatti in Corea del Nord, che è comunque di difficilissima lettura. Andiamo su questo piccolo risico, anzi piccolo grande risico che si sta giocando in Estremo Oriente. Come mai Russia e Cina parlano di abbassare i toni e non condannano semplicemente la Corea del Nord, per esempio? La Cina è formalmente un alleato della Corea del Nord ormai da 6 decadi almeno, e ha un imperativo strategico fondamentale che l'ha sempre avuto, ed è la ragione per cui la Cina è entrata in guerra nella guerra di Corea, perché quando Mao ha deciso di inviare le cosiddette truppe volontarie nella guerra di Corea, la situazione in Cina non era delle migliori per iniziare un conflitto contro le truppe americane. Ma perché ha deciso di fare questo? Perché le truppe americane si erano spinte fino al confine fra la penisola coreana e la Cina e minacciavano direttamente il territorio cinese. Questo imperativo strategico è ancora valido tutt'oggi, perché se noi ci immaginiamo la Cina che abbandona la Corea del Nord, che in qualche modo si fa portatrice di un cambiamento di regime, lo scenario più probabile è quello di una riunificazione in stile tedesco, quindi per assorbimento da parte della Corea del Sud. Che cosa significa? Che gli Stati Uniti avrebbero la possibilità di traslare le loro truppe stanziate in Corea del Sud fino al confine con la Cina, e ovviamente questa rappresenterebbe una minaccia strategica fondamentale agli interessi cinesi. Certo. E quindi questa è la prima motivazione. Certo. La seconda motivazione fondamentale è che la Cina ha la necessità di mantenere la stabilità regionale in questo momento. Un collasso del regime nordcoreano potrebbe aprire scenari per un certo verso inimmaginabili. Adesso Nessun Luogo fa una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, parleremo di un'eccellenza criminale italiana all'estero, di 'Ndrangheta. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ancora un buon weekend da parte mia, da parte di Antonio Tali e Elisa Pancaldi. Questo è il meglio di Nessun Luogo è Lontano, la versione del weekend in cui andiamo a ripercorrere un po' i fatti salienti della settimana e i temi che hanno occupato le prime pagine internazionali. Abbiamo parlato di Corea del Nord, torniamo in Italia per parlare di un'organizzazione criminale nostrana, diffusa in maniera capillare in tutto il mondo. Parliamo di 'Ndrangheta, della sua rete, dei suoi meccanismi di rafforzamento attraverso la partecipazione di più attori internazionali. Una prima fotografia di quella che è l'Ndrangheta ce la consegna Margherita Bettoni, giornalista per il primo centro di giornalismo investigativo no profit in Germania, si chiama Corrective, di base a Berlino. La Bettoni è coautrice del libro La mafia in Germania. Sentite come racconta l'Ndrangheta sul suolo tedesco. Allora, diciamo che negli ultimi 10 anni, quindi a partire dalla strage di Duisburg ad oggi, l'Ndrangheta in Germania è sicuramente prima di tutto diventata più forte. Il potere dell'Ndrangheta resta incontrastato anche in Germania come in Italia ed è aumentato molto. E un altro aspetto però molto importante è che l'Ndrangheta con Duisburg ha fatto, diciamo, un cambio di tattica, nel senso che Duisburg è stato un grandissimo errore per l'Ndrangheta in Germania e per la mafia in Germania in generale, perché diciamo ha acceso i riflettori dell'opinione pubblica tedesca sul problema delle mafie italiane in Germania. Quindi dopo Duisburg l'Ndrangheta in Germania ha scelto la tattica di niente violenza, niente morti, diciamo quantomeno morti eclatanti come sono stati quelli di Duisburg, e tanti affari. Per capire meglio quali sono i tratti distintivi di questa azienda multinazionale, come l'abbiamo definita, ci aiuta in questa analisi Francesco Forgione, giornalista, scrittore, già presidente della commissione antimafia dal 2006 al 2008. Forgione, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, Forgione, quali sono i caratteri distintivi dell'Ndrangheta rispetto ad altre mafie come Cosa Nostra e la Camorra? Ma io credo che l'Ndrangheta oggi rappresenti l'unica vera criminalità organizzata globale. Ovunque è arrivata, a Duisburg c'era già arrivata alla fine degli anni 50, come in Germania, come in Belgio e poi in Canada, in Australia, ha seguito i flussi dell'emigrazione calabrese nel mondo. Ovunque arriva, non si limita a investire propri soldi, a riciclare, attività che fanno anche Cosa Nostra o la Camorra. No, ovunque arriva riproduce il proprio modello criminale. Non bisogna dimenticare che la sera della strage di Duisburg, nel retro ristorante da Bruno, un giovane di 18 anni, una delle vittime, Venturi, era stato affiliato, cioè lì l'Ndrina aveva riproposto il proprio modello organizzativo. L'Ndrangheta riproduce le proprie ndrine, riproduce i propri locali, lo fa a Milano, lo fa a Reggio Emilia, lo fa in Australia, dove addirittura hanno diviso il territorio ridefinendo la struttura organizzativa attraverso una cupola che gestisce un crimine, come lo chiamano i calabresi, che gestisce l'intera struttura organizzativa. Ma la forza sta sempre in questo legame locale-globale. La testa, il cuore rimane in Calabria. Il crimine che decide le strategie rimane in Calabria. Cosa rende l'Ndrangheta così internazionale? Ma per due motivi: perché riproduce il modello criminale, quindi laddove si riproduce afferma forme di controllo del territorio. E secondo, perché ha intercettato il più grande affare, mentre Cosa Nostra era impegnata nella guerra interna e poi nella guerra allo Stato con le stragi, l'Ndrangheta invece comprendeva il cambio di fase con la globalizzazione, cioè un grande processo di finanziarizzazione nel quale mettere i propri soldi e il passaggio dal mercato dell'eroina al mercato della cocaina. L'eroina diventava la droga dell'emarginazione, degli sfigati, mentre la cocaina, la droga dei VIP, la droga del potere, e l'Ndrangheta la immetteva in questo mercato proponendosi come una mafia affidabile. Perché affidabile? Perché la sua struttura l'ha protetta dal fenomeno dei pentiti. Fare affari con l'Ndrangheta vuol dire portarli al sicuro, portarli in porto, per usare un bisticcio di parole. I colombiani, i boliviani, i peruviani l'hanno capito e hanno fatto dell'Ndrangheta il loro principale broker. Sempre spulciando tra i suoi libri, lei quantificava il fatturato annuo di Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra in circa 130 miliardi di euro. Si riesce a quantificare quanto la sola Ndrangheta riesce a fatturare? usando sempre le pinze, io sì. Non sono tra quelli che piace spararle grosse, però per usare dati di riferimento che usa anche il Ministero dell'Interno, insomma attorno a 45-50 miliardi, ma guardi, un chilo di cocaina che in Colombia ai produttori viene pagato 1.000 euro, ai narco, quando va nelle mani dei narcos per la prima lavorazione vale già 15.000 euro, quando arriva nelle mani dei calabresi vale 25.000 euro, quando arriva nelle piazze di Scampia o di Secondigliano o a Milano, al mercato, quel chilo di coca pura produce circa 5 chili di cocaina tagliata. Ognuno di questi 5 chili vale al mercato circa 50.000 euro. Per usare Marx, è la teoria del plusvalore, sì. Non c'è una merce al mondo in grado di produrre un plusvalore da 1.000 a 250.000 euro. Sì. Il problema qual è? Che noi quando intercettiamo le organizzazioni di narcotrafficanti colpiamo le strutture criminali, non intercettiamo mai la struttura parallela che movimenta questi flussi economici e finanziari. Per questo la 'ndrangheta è diventata così potente, perché questi soldi poi li ha reinvestiti fuori dalla Calabria. In Colombia ci sono insediate da anni, da decine di anni, delle 'ndrine importantissime, degli agenti delle 'ndrine. Pensi che le intercettazioni ci hanno fatto ascoltare una telefonata con la capitale della Bolivia, con La Paz, dove rispondeva dalla Paz una vecchietta in perfetto calabrese al figlio che la chiamava dall'Aspromonte, poi si sentivano solo dei fischi, sì. E col linguaggio che usavano da pastori loro avevano trasformato un alfabeto morse col quale trattavano milioni e milioni di euro. Cioè ci sono degli insediamenti calabresi ormai in Colombia, Bolivia, Perù, anche in Ecuador nell'ultimo periodo, e in Messico, non sottovalutiamo il Messico, che garantiscono l'acquisto e il trasporto. I calabresi sono affidabili. Lei pensi che ad alcuni siciliani i colombiani li hanno sequestrati, portati nella giungla perché non pagavano le partite di cocaina, e la garanzia dei calabresi li ha portati a liberare. Cioè i calabresi oggi sono purtroppo un marchio di qualità criminale negli scenari criminali internazionali. Quindi ci sono insediamenti lì che garantiscono questi grandi traffici, insediamenti in Spagna, che è l'altra porta di accesso della cocaina, insediamenti stabili, e questo garantisce il traffico internazionale. Torniamo ai porti, Forgione, perché mi sembra importante menzionare anche uno dei grandi porti d'ingresso, che è quello italiano, quello di Gioia Tauro. Leggendo i resoconti delle cronache si legge di svariati sequestri che avvengono quasi mensilmente, se non settimanalmente. Il problema è che andare a monitorare tutti i cargo che entrano nel porto è quasi impossibile, e quindi comunque chili e tonnellate di cocaina entrano nel nostro paese. Quanto costa movimentare, per esempio, quello che è uno dei business principi, no, dell'andrangheta, cioè il traffico di cocaina? È costoso mettere su una rete come quella che lei ha descritto? Ma guardi, per loro non è costoso, loro hanno talmente tanti soldi e il problema che hanno è investirli, non altro, a trovare le forme di investirli e di ripulirli. Lei sa, io ho scritto Porto Franco dedicato proprio al porto di Gioia Tauro, alla sua storia. Pensi che solo nel 2016 sono stati sequestrati 1.700 chili di cocaina pura, e pensi che a Gioia Tauro lo Stato, la finanza, riesce a controllare all'anno una media tra 1.300 e 1.500 container, ma da quel porto ne passano circa 3 milioni. Quindi se non si ha un reale servizio di intelligence o degli agenti sotto copertura, è praticamente impossibile scoprire la cocaina che transita da quel porto. Ma non stiamo parlando solo della cocaina. Da Gioia Tauro transitano rifiuti tossici, armi, merci contraffatte. È uno dei principali porti di approdo della contraffazione europea, il cui mercato poi sappiamo che si svolge a Piazza Vittorio, e dove l'andrangheta ha diretti rapporti anche con le rappresentanze cinesi. È un'eccellenza criminale, purtroppo. È un'eccellenza criminale che lo Stato ha cominciato a contrastare in ritardo, anche a conoscere in ritardo, e questo è un problema dello Stato, ma anche nostro, del mondo dell'informazione, è un problema della società civile, a differenza che in Sicilia, in Calabria non esiste una società civile organizzata, non esiste un'indignazione nel mondo della politica. Bisogna parlarne, evidentemente, la politica deve esserne a conoscenza e deve eventualmente predisporre anche gli strumenti legislativi, che pure però in Italia non mancano. Se dovesse stilare in estremissima sintesi tre mosse per sconfiggere questa gigantesca organizzazione criminale. Guardi, io penso che noi abbiamo delle buone leggi, le dobbiamo ben applicare, dobbiamo insistere sul sequestro e la confisca dei beni, noi li dobbiamo proprio colpire lì, all'essenza della loro forza e della loro capacità di riprodurre la potenza di cui dispongono, che è militare certo, ma è prevalentemente economica e finanziaria. Poi avremo bisogno di una politica capace di ripulire se stessa senza aspettare la magistratura. In Calabria stranamente non esiste nel dibattito pubblico l'andrangheta, e l'altro grande tema è organizzare la società, ma la partita la vinceremo qui, nella regione che è all'ultimo posto in tutti gli indici economici, sociali di sviluppo e che pure dà vita ad una criminalità che movimenta miliardi di euro in tutto il mondo. Beh, in questa contraddizione e nella soluzione di questa contraddizione c'è la sconfitta dell'andrangheta. Grazie mille. Francesco Forgione, scrittore, giornalista, già presidente della Commissione Antimafia dal 2006 al 2008. Buona giornata, Forgione, buon lavoro. Grazie a voi. Facciamo una piccola pausa, restate con noi perché tra poco di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è il meglio di Nessun Luogo Lontano, i temi salienti che abbiamo affrontato durante la settimana. Adesso parliamo di un tema piuttosto sensibile. Giovedì in una puntata speciale abbiamo rotto il silenzio, abbiamo parlato dello stupro come arma di guerra. Una strategia militare che in tanti teatri che vi abbiamo raccontato viene utilizzata per annichilire, per umiliare l'avversario. Sentiamo il meglio della puntata andata in onda appunto giovedì scorso. La drammatica testimonianza che sentite in Kiswahili è di una delle vittime di uno stupro da parte di una banda armata. Racconta che i miliziani arrivano, ti fanno aprire la porta, ti buttano per terra e ti violentano davanti alla famiglia. Poi obbligano il marito o i figli addirittura a violentarti e se si rifiutano li uccidono. Questa è una delle tante testimonianze che sono racchiuse in un film che si intitola L'homme qui répare les femmes, l'uomo che aggiusta, che ripara le donne, girato da Thierry Michel con la collaborazione di una giornalista belga, Colette Brachmann, scrive per Le Soir. Ed è un film che racconta una figura, la figura di un medico, il dottor Mukwege. Se continuo a fare il mio lavoro è per le mie pazienti. Giovani donne adulte che sono incontinenti perché hanno subito una perforazione della vescica o perché hanno subito una perforazione del retto. E quando riesco a curare bene la ferita e queste donne possono tornare a fare la pipì regolarmente, l'emozione mi sovrasta. Vedo una giovane donna adulta che rinasce nel modo in cui mi chiama e mi dice: «Dottore, vieni a vedere, riesco a fare la pipì autonomamente». Sono cose che non solo ti emozionano, ma che danno gioia. Danno gioia a te che hai potuto ridare la felicità a una persona che si sentiva completamente persa. Mais là aussi vous avez la joie de donner la joie à quelqu'un qui se sentait complètement perdu. Era la voce del dottor Denis Mukwege che ha aperto un ospedale a Panzi, a Bukavu, Sud Kivu, Repubblica Democratica del Congo, un'eccellenza dal punto di vista sanitario. Lui ha studiato in Francia, si è specializzato in ostetricia e ginecologia e tenta di arginare, tamponare, curare un fenomeno che è diventato endemico in quella regione del Congo. Lo dicevo, tantissime milizie e gruppi armati che utilizzano lo stupro come arma di guerra per terrorizzare i villaggi, molto spesso ci sono anche dinamiche etniche nascoste dietro a quegli atti, altrettanto spesso gli stupri avvengono nei campi profughi oppure compiuti anche dai soldati dell'esercito governativo. Partiamo dai fatti, partiamo dal diritto e quindi l'inquadramento anche giuridico internazionale, cioè come viene valutato questo delitto, come viene condannato, ma soprattutto chi poi va a giudicare. Ci soccorre in questa analisi Marco Pertile, che insegna diritto internazionale dei conflitti armati all'Università di Trento. Professor Pertile, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, intanto partiamo da una definizione, cioè lo stupro, la violenza sessuale come arma di guerra. Il diritto ci soccorre in che modo? Ma il diritto riconosce che questi comportamenti sono comportamenti vietati e lo fa da tempo, lo fa davvero da molto tempo. Si potrebbe andare addirittura a Ugo Grozio, Alberico Gentili a cavallo tra il 500 e il 600, ma poi appunto venendo ad epoche più vicine a noi, dal Liber Code del 1863 nella guerra civile americana fino alla Convenzione dell'AIA, alla Convenzione di Ginevra, alla Quarta Convenzione di Ginevra. Quindi esistono norme che vietano questi comportamenti, sono norme diciamo piuttosto risalenti, che hanno anche dei problemi definitori, spesso fanno riferimento all'onore e qualificano i comportamenti di violenza sessuale come connessi all'onore familiare, quindi con un approccio diciamo piuttosto antico, ma sì. Poi si precisano nel tempo sempre più per arrivare agli statuti dei tribunali internazionali e in particolar modo allo statuto della Corte Penale Internazionale, che vieta ampiamente questi comportamenti, vieta lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e altre forme di violenza, sia come crimini contro l'umanità che come crimini di guerra. Sì. Quindi c'è un ampio divieto e ovviamente a fronte di un ampio divieto potremmo chiederci quanti casi e quanto questo divieto poi venga concretamente applicato. Sì. No? Questo immagino sia la domanda. No? Sì, che è la grande domanda di oggi. Professor Pertile, sì. Lei ha citato il Tribunale Internazionale. Sì. Perché intervengono tribunali internazionali nel giudicare questo tipo di crimini? Ma diciamo che i tribunali internazionali sono oggetto davvero di una svolta da questo punto di vista, dal punto di vista della criminalizzazione e dell'attuazione di queste norme, perché è a partire dagli anni 90 che ci sono dei casi internazionali di condanna di questi comportamenti, e in particolar modo con l'opera del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia e del Tribunale Penale per il Ruanda, anche la Corte Speciale per la Sierra Leone successivamente, ma questi tribunali appunto vengono istituiti diciamo in una prima fase come dei tribunali ad hoc, no? Dei tribunali che si occupano di un caso specifico e di una situazione appunto specifica. Dopo ovviamente la comunità internazionale successivamente si dota anche di uno strumento di natura generale come la Corte Penale Internazionale, però sì. le regole, no? per garantire appunto l'attivazione della Corte sono delle regole particolari che si legano insomma alla nazionalità, alla cittadinanza del reo o della vittima o al luogo in cui il crimine viene perpetrato. No? Ecco, e qua andiamo sul punto forse più sensibile, più delicato, sì. Professor Pertile, perché abbiamo un caso, per esempio, quello congolese, in cui vige una profonda impunità rispetto a questi crimini. Possiamo citare dei casi virtuosi in cui il Tribunale Internazionale è realmente riuscito ad andare a fondo rispetto alle denunce, rispetto a questi crimini? Da un certo punto di vista potremmo dire che la situazione attuale è incoraggiante, nel senso che alcuni casi in cui i tribunali internazionali hanno giudicato su condotte di questo tipo ci sono. Sono dei casi che riguardano situazioni difficilissime come quella appunto nel conflitto nella ex Jugoslavia, riguardante il conflitto nella ex Jugoslavia o appunto la Sierra Leone, Ruanda. Per quanto riguarda il Congo, la situazione in Congo è all'attenzione della Corte internazionale, la Repubblica Democratica del Congo ha ratificato lo statuto, noi non dobbiamo dimenticare che la Corte opera sulla base di uno statuto che è un accordo internazionale, no? Quindi sì. C'è bisogno di una ratifica sì. oppure che la situazione venga attivata dal Consiglio di sicurezza, no? che ne indichi l'opportunità alla Corte. E, Ecco, quindi dal 2004 la situazione, la Repubblica Democratica del Congo ha riferito la situazione alla Corte Penale Internazionale, e quindi c'è giurisdizione della Corte Penale Internazionale su questi fatti, ed esistono anche dei procedimenti in corso che riguardano appunto dei casi di violenza sessuale assieme a molte altre condotte. Sì. E, ecco, forse ci possiamo chiedere come mai, è vero, ci sono segnali incoraggianti perché casi ce ne sono, forse potremmo chiederci quali sono i motivi, no? di un numero però relativamente basso di condanne internazionali per queste condotte. C'è anche una difficoltà dal punto di vista delle indagini, delle investigazioni, esatto, no? Esatto, era proprio quello che stavo per dire, no? Possiamo ovviamente, siamo nell'ambito delle ipotesi, no? Ma possiamo pensare che forse questi casi siano dal punto di vista probatorio piuttosto difficili e che quindi a fronte di una serie di condotte anche molto gravi commesse dagli stessi individui magari i procuratori decidano di usare altri capi di imputazione. Questa è una possibile spiegazione. Sì. L'altra spiegazione potrebbe essere appunto quella di una sostanziale forse sottovalutazione della gravità di queste condotte, che forse è una spiegazione che è stata vera storicamente, cioè prima degli anni 90, no? Quando nonostante il divieto di queste condotte fosse chiaro, sostanzialmente queste condotte venivano sottovalutate, si ritenevano quasi connaturate, quasi un elemento normale nei conflitti, no? Sì. E quindi oggetto di una sottovalutazione di fatto e non di diritto. Spesso queste condotte si verificano in stati che sono ancora pienamente attraversati dal conflitto e in cui l'esercizio della giurisdizione anche da parte delle corti interne è molto difficile. Certo. Quindi... O escono da lunghi conflitti, come il caso della Repubblica Democratica del Congo, in cui in realtà ancora c'è un conflitto latente in varie regioni, insomma, per cui il sistema giudiziario non è particolarmente solido, evidentemente anche gli strumenti, no, anche investigativi non sono così raffinati. Io ringrazio tantissimo il professor Marco Perti, lo ricordo, insegna diritto internazionale dei conflitti armati all'Università di Trento. Professore, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, buona continuazione. I numeri molto spesso che la cronaca ci restituisce rispetto allo stupro utilizzato come arma di guerra non rispondono alla verità, nel senso che molte volte le donne non denunciano. Evidentemente state capendo anche i motivi, a volte sono ferite invisibili che la comunità si porta dietro. Io lavorai nel 2010 in Repubblica Democratica del Congo, proprio nel Nord Kivu, e andai a visitare un villaggio 3 mesi dopo che per 3 giorni e 3 notti furono stuprate 200 donne di quel villaggio. Tutti puntarono il dito contro una milizia Hutu ruandese, gli FDLR, il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda. Quando arrivai nel villaggio, erano passati già 3 mesi, lo stigma sociale, l'emarginazione verso le vittime era evidente. Per poter avere la testimonianza delle donne dovevamo quasi nasconderci dai mariti, chiuderci in una capanna per cercare di poter parlare liberamente appunto con queste vittime. Adesso facciamo una piccola pausa, ma restate con noi perché tra poco torniamo con l'ultima parte del Meglio di Nessun Luogo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Andiamo a riascoltare la puntata nella quale ci siamo concentrati sul summit sull'immigrazione di Parigi. Quali sono stati i punti fermi, ma soprattutto quali i punti di domanda? Cosa è stato deciso, o meglio, cosa non è stato deciso? Sentite. Allora, vado per punti. Non è facilissimo districarsi tra i meandri del documento finale. Innanzitutto si è parlato di creazione di hotspot in Niger e in Chad. Che cosa sono gli hotspot? Sono i centri dove si valuta lo status giuridico del migrante per capire se ha diritto a una forma di protezione o meno. E lì c'è già un grande primo punto di domanda, perché a leggere i resoconti della stampa si evince che questo screening verrà effettuato sulla base delle liste chiuse dell'UNHCR, cioè del Commissariato per i Rifugiati dell'ONU. E già, qua è il primo punto di domanda. Un altro punto di cui si è discusso e ha fatto storcere il naso a un po' di presenti è la presenza militare sul terreno. Su questo ha spinto molto la Francia. L'idea qual è? L'idea è quella di proteggere gli hotspot ed evitare problemi. I maligni potrebbero pensare che la Francia miri a un rafforzamento della sua presenza militare nell'area. Ricordiamo i corposi interessi francesi in Niger, per esempio. Sto pensando al nord del paese, le miniere di uranio. Altro punto importantissimo, il regolamento Dublino 3, che potrebbe essere rivisto, lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. Cosa dice il regolamento Dublino 3? Dice che il migrante dovrà essere accolto e dovrà formalizzare le sue richieste di protezione, sia essa protezione internazionale o diritto d'asilo, nel primo paese che tocca. Come abbiamo ripetuto più volte, questo evidentemente accolla agli stati in prima linea, tra virgolette, tutto il peso della prima accoglienza e della gestione dell'immigrazione. Ma qua viene da dire c'è un grandissimo punto di domanda, perché visto che i flussi si sono arrestati, a questo punto il regolamento Dublino 3, se venissero attuati anche gli hotspot in territorio africano, diventerebbe praticamente inutile. Quarto punto, il controllo delle frontiere libiche. Quella del mare adesso è affidata alla Guardia Costiera Libica, che proprio negli ultimi giorni ha salvato e riportato in patria 700 migranti, in patria intendo il territorio libico, e qua c'è la levata di scudi delle organizzazioni internazionali per i motivi che abbiamo più volte ripetuto. La Libia non è un paese sicuro, non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra, e quindi riportare i migranti lì pone evidentemente dei problemi non solo etici ma anche giuridici. Poi ci sono le frontiere del sud. L'Europa sta finanziando, anche l'Italia sta dando soldi alla Libia anche per andare a rassicurare la enorme migliaia di chilometri frontiera sud libica. E qua mi collego all'ultimo punto, che è quello dei soldi. L'Europa ha promesso nuovi fondi per i tre paesi di transito. Quanti soldi, dove andranno a finire, è l'altro grande punto di domanda. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Stefano Torelli, ricercatore di ISPI, l'Istituto di Studi per la Politica Internazionale, esperto di Mediterraneo. Stefano Torelli, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Allora Stefano, la prima domanda in realtà è quasi retorica, nel senso che io mi sono posto un sacco di domande. Cioè mi sembra che questo summit sono state decise alcune cose, ma rimangono tante zone d'ombra. Un primo giudizio molto sintetico, appunto, più zone d'ombra o più punti fermi? Allora io direi alcuni punti fermi dal punto di vista di una volontà strategica volta sempre di più a, come si è detto ormai più volte, esternalizzare quelle che sono le frontiere della sicurezza europee. E molti dubbi ancora rimangono sulle modalità attraverso le quali appunto l'Unione Europea dovrebbe garantire questa esternalizzazione dei controlli di una frontiera che, anche se in maniera virtuale, sembra si stia spostando sempre di più sotto il Nord Africa e quindi appunto nella fascia del Sahel. Stefano, abbiamo toccato un po' di punti. Torniamo su quel regolamento Dublino 3 che Angela Merkel invita a, come dire, a rimetterci mano, no? Io provocatoriamente ho detto: beh, adesso è troppo tardi, adesso è facile rimettere mano al Dublino 3 se apriremo gli hotspot e se, insomma, ormai il flusso pare essersi arrestato sulla rotta centrale del Mediterraneo. Che cos'è? Una trovata politica? Allora, sicuramente come altre diciamo così altri annunci che sono stati dati dopo questo vertice, è un'idea, diciamo, quasi accennata, buttata lì, ma non vi è nessun progetto concreto. Quindi sicuramente non si capisce bene a cosa faccia riferimento chiaramente la Merkel quando parla esattamente di superamento di Dublino. Ma seguo ancora quella che era la tua, diciamo così, provocazione di prima, quando giustamente si diceva: beh, se si faranno questi hotspot nei paesi africani e se gli arrivi, insomma, sono sempre minori, fino quasi a ormai in Italia quasi non sbarcano più ufficialmente persone, allora non c'è bisogno del regolamento di Dublino, perché appunto la selezione verrà fatta a monte. Sì. Ecco, se così fosse, quindi abbiamo messo tanti se, perché chiaramente sappiamo quanto sarà difficile, se non impossibile, veramente poter attuare questa politica di hotspot in contesti già molto molto disagiati. Su questo magari volendo torneremo dopo, ma sì, assumendo che tutto questo funzionasse, che tutto questo meccanismo funzionasse, torniamo al problema della volontà politica dei paesi membri dell'Unione Europea a sottostare, diciamo così, a questo tipo di politiche, di scelte. E qui mi viene alla mente un esempio, che è quello della politica di ricollocamento che è stata promessa nel maggio 2015, quando si era, diciamo, all'apice di quella che allora sembrava una vera e propria emergenza. Sì. E si era deciso di appunto ricollocare, d'accordo con tutti i paesi europei, 100.000, 106.000 per l'esattezza persone dalla Grecia e dall'Italia per nei vari 28, anzi 26, perché escludendo Grecia e Italia, paesi dell'Unione Europea, e questo era un obiettivo che si davano in 2 anni. Ebbene, oggi, dopo 2 anni, di questi 106.000 rifugiati che dovevano essere riallocati, ne sono stati riallocati soltanto 24.600. Stefano, proviamo a fare un ragionamento molto breve sulle rotte, perché c'è un dato: vi sono non soltanto uno stop praticamente delle partenze dalla Libia, abbiamo capito perché, c'è anche un decremento, una flessione molto molto forte degli arrivi in Niger, che è un po' la prima base di partenza per poi andare in Libia. C'è qualcuno che lo collega all'incremento della rotta Marocco-Spagna, dicendo attenzione, le rotte si stanno muovendo. Cosa ne pensi, Stefano Torelli? Allora, questa analisi, diciamo, questa ipotesi ha del vero in parte, nel senso che allora sicuramente è vero che quando si parla di rotte migratorie, lì dove non vengano risolti alla radice quelli che sono i problemi e le cause, insomma, delle migrazioni, le persone continueranno, se non altro, a cercare di emigrare. Sì. E quindi sicuramente chiusa una rotta se ne troverà sicuramente un'altra, soprattutto le organizzazioni criminali e gli smugglers, insomma, che lavorano sul campo, di solito hanno dimostrato di essere molto più rapidi di quella che è la risposta politica. Confermo, quindi, sì. Insomma, sicuramente trovano rotte alternative, quindi questo è vero, e in parte questo nasconde anche un po' quello che era appunto il dato che ha dato lo IOM circa gli arrivi in Niger. Sì. Sicuramente sono registrate meno persone, ma è molto plausibile, come confermano anche fonti che sono lì sul campo in Niger, che si stiano creando appunto delle nuove rotte. Anche per oggi il meglio di Nessun Luogo Lontano finisce qui. Intanto vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi auguro un buon weekend, l'appuntamento è per domani alle 19, se avete voglia di riascoltare questo meglio di Nessun Luogo è Lontano. È l'ultimo appuntamento, è l'ultima volta che vi parlo da questo microfono, per cui, come amo dire, spengo il microfono, prendo lo zaino e vi saluto ricordandovi che Nessun Luogo è Lontano.